Dico due cose veloci, nel senso che finora tutte le presentazioni che abbiamo fatto non sono state anticipate da due parole, però ci sembrava importante questa presentazione dire due cose velocissime rispetto al senso dell'iniziativa e al piacere di avere qui Renata che ci racconterà il suo lavoro e ci ha portato il frutto del suo lavoro in qualche modo. Il formaggio che ha fatto lei. Dico così perché, vabbè, Renata, oltre a essere la mamma di Simone, quindi uno di noi, è uno dei primi incontri che abbiamo fatto con gli agricoltori del nostro territorio. Tutto quello che sta succedendo in questi giorni a Leoncavallo è un po' partito da quegli incontri sul nostro territorio. Abbiamo, attraversando quel territorio, nascendo in quel territorio, abbiamo visto delle trasformazioni veloci negli ultimi anni e ci siamo trovati a, in qualche modo, a condividere anche delle battaglie per difenderlo, quel pezzo di territorio. E difendendo quel pezzo di territorio ci siamo resi conto che forse si parlava di qualcosa di più globale. Tant'è che poi, con varie evoluzioni che non vi sto qua a raccontare, e l'incontro con Critical Wine, lo spazio messo a disposizione del Leoncavallo, l'energia del Folletto, abbiamo fatto queste 3 giorni, insomma, che noi siamo sfatti, stremati dalla terra trema, però contenti, insomma, e niente, boh. Renata ha invitato un altro produttore lodigiano, che non mi ricordo come si chiama, Giuseppe, e che penso che faccia lo stesso lavoro di Renata, e boh, adesso lascio la parola a loro, insomma.